La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, buon martedì 22 di luglio, sono le 16:34 primi e 56 secondi. Vado subito al tema della giornata, quindi come al solito sapete il numero di telefono se volete intervenire è 800 24 00 24, 349 238 6666 se volete mandarci gli sms. Allora, il punto, la domanda la metto giù con una semplificazione giornalistica che come sempre quindi c'ha una punta di paradosso, di sarcasmo, di ironia e di semplificazione, perché stiamo parlando di un tema complesso. La domanda è: ma non è che per caso siamo passati, dopo i 3 mesi in cui il presidente del Consiglio Renzi accusava tutti coloro che mettevano in dubbio le previsioni di crescita del governo, la ripresa, l'ottimismo, la necessità di quello che lui definisce lo storytelling, cioè bisogna animare con vigore una nuova immagine dell'Italia più fiduciosa sui suoi mezzi e sulle sue prospettive, e se la prendeva con chi aveva qualche dubbio, no? Di fronte ai numeri, diceva ecco i gufi. Ecco, non è che per caso si è chiusa davvero l'era dei gufi ed è iniziata quella degli struzzi, cioè di quelli che mettono la testa sotto la sabbia per non vedere la realtà, perché i dati, i numeri della realtà sembrano, non per fare i pessimisti, ripeto, perché molti mi dicono ah tu sei pessimista, disdain, sempre la solita storia, no, però i numeri a cui bisogna guardare con attenzione ci dicono che noi non solo siamo, ohimè, fermi, cioè in attesa di un stima del PIL del secondo trimestre che con ogni probabilità, visto l'andamento della produzione industriale e visti i dati ancora ieri molto deludenti degli ordinativi del fatturato della produzione industriale in calo, che sarà un secondo trimestre dopo il primo col segno meno, molto probabilmente anch'esso col segno meno o zero, quindi lo 0,8% delle previsioni che il governo non ha voluto modificare fin qui di crescita non stanno in piedi. Anche la Banca d'Italia ha corretto, lo abbiamo visto la settimana scorsa, più 0,2% delle attese di crescita. In più ci sono anche i dati internazionali, la Francia continua ad andare male, il grande malato d'Europa, la Germania, ieri il Bundesbank ha fatto una stima del secondo trimestre come un secondo trimestre di stasi, è vero che non ha modificato le attese di crescita a più 1,9% della Germania, ma resta il fatto, insomma, il commercio mondiale, sia il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, sia il Fondo Monetario dall'inizio dell'anno che abbassano sia le stime del commercio mondiale, che è il motore della crescita nel mondo, sia le stime del PIL atteso planetario, quindi la grande molla della crescita italiana sta funzionando meno delle attese, perché comunque i paesi emergenti hanno avuto belle botte, quindi crescono sì, ma crescono molto meno dell'atteso, e noi dal punto di vista della domanda interna siamo piantati. Allora, di fronte a questo, non è che per caso bisogna, invece di un ottimismo legittimo quanto volete, ma che nei dati non è suffragato la realtà, bisogna guardare in faccia la realtà, cambiare musica e scegliere le priorità vere su cui intervenire invece di affastellare riforme su riforme i cui benefici sul problema numero uno, cioè l'economia, sono secondari rispetto alle cose che andrebbero fatte nell'economia. E non voglio su questo trascurare l'importanza della riforma del Senato, della legge elettorale, no, assolutamente no, però dico che noi abbiamo avuto solo il bonus 80 euro fino a questo momento, ne abbiamo già discusso, però fino a questo momento la situazione resta quella. Fine di questa brevissima introduzione per sapere cosa ne pensate, se purtroppo sono gli struzzi a comandare invece dei gufi. Le parole stamattina pronunciate dal presidente dell'ANCE Buzzetti, che abbiamo spesso ospite qua perché le costruzioni sono il settore che ha perso più valore aggiunto e in proporzione quindi sul PIL insieme all'auto, ma con un effetto molto più pesante sul totale del PIL e del reddito del nostro paese. E stamattina all'assemblea annuale Buzzetti ha, come è giusto visti i numeri del settore, suonato delle trombe abbastanza terrificanti, ricordando, tanto per cominciare, che la patrimoniale in Italia c'è già e come, visto che da 9 miliardi di gettito ICI del 2009 siamo passati a 26 miliardi di imposte sulla casa attese per quest'anno. Allora, io la finisco qua perché secondo me è bene fare parlare persone che hanno più titoli e guardano i numeri con strumenti molto più ampi dei miei, che sono un umile giornalista, E quindi oggi pomeriggio ho deciso di chiedere a un docente di strategia di impresa ed economia aziendale presso la scuola di direzione aziendale della Bocconi, al professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, che cosa ne pensa. Buon pomeriggio di essere con noi, professore. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Allora, lei su questa semplificazione gufi e struzzi come la pensa? Che non voglio fare il gufo, ma neanche l'allocco, Oscar, se posso dire, ecco, per rimanere nella stessa specie, diciamo, di strigiformi. Ovvero, il tema è avere occhi per guardare lontano e rendersi conto che, l'ho messo in un tweet che annunciava la nostra chiacchierata, che forse prevedere una crescita improbabile è continuare ad ingannarsi, e che per l'Italia lo scenario più concreto, più pragmatico, è quello di prepararsi a gestire una lunga stagnazione efficiente. Che vuol dire? Non attendersi mirabolanti crescite che non ci saranno, poi vedremo perché, ma prepararsi sostanzialmente a consolidare l'economia, come fa un'azienda che si rende conto che non ha mercato. E quindi inutile che prometta tasse di crescita incredibili, che poi perde ovviamente perde la capacità di convincere, ma che si prepara a ristrutturarsi correttamente. E secondo me questo è quello che ci servirebbe, cioè smettere di dire promesse, ovviamente evitare di fare gli struzzi, questo non c'è dubbio, giusto non fare i gufi, ma appunto neanche gli allocchi. Quindi la vera osservazione è come possiamo guardare a questi prossimi 10 anni, perché di questo si tratta, sapendo che abbiamo 10 anni di ristrutturazione della nostra struttura reddituale come paese, quindi del PIL, e della nostra struttura patrimoniale, che è un altro tema. Tu hai detto prima la patrimoniale c'è già, mi piacerebbe tornare su questo aspetto. No, ma ci dobbiamo tornare, perché uno dei punti tradizionalmente di forza del nostro paese è quello di essere tra la più elevata patrimonializzazione tra i paesi OCSE. Il problema è che quando non sei bravo a fare flussi, cioè redditi, ti devi porre un problema su un utilizzo più redditizio del patrimonio quando ne hai tanto. Esattamente, vorrei infatti smettere di parlare di PIL soltanto e cominciare a parlare di allocazione del patrimonio italiano, che è uno dei più alti d'Europa, del mondo in realtà, dell'OCSE, ma è allocato male. Quindi se vogliamo rimettere in moto il PIL, non dico tornare a crescere, ma rimettere in moto il PIL, compensando la strutturale decrescita che ci sarà invece per una serie di cose che diremo, la prima cosa da guardare, e la novità che voglio discutere stasera, è, signori, l'allocazione del patrimonio degli italiani in termini di capitale fisso, di ricerca del bene rifugio, dei risparmi, è inefficiente. E quindi iniziamo dal mattone, perché cominciamo dal mattone, certamente, cominciamo dal mattone, il quale è stato appunto il grande amore degli italiani e che non ha necessariamente prodotto una bolla immobiliare, ma è una questione di prezzi, che pure sono cresciuti oltre, decisamente oltre il reddito. L'Italia ha un rapporto fra valore medio dell'immobile e reddito medio delle persone che comunque è tra i più alti, è il più alto d'Europa. Ma perché, professore, per tantissimi anni le banche dicevano agli italiani, qualunque sia il livello del reddito prodotto, cioè può andare anche più male, ma tanto il valore medio del mattone su cui impegnate parte così elevata del vostro reddito non potrà che avvalorarsi, e sembrava che fosse una sfida alla legge di gravità. Però questo è il motivo per cui abbiamo indotto gli italiani per tanti anni a impegnare una quota così tanto elevata del loro reddito disponibile. Poi abbiamo scoperto che invece ci sono punti di caduta del reddito oltre i quali il valore dell'unità immobiliare scende anche lei, ovvio. Sì, ma prima di tutto il valore funzionale, il valore d'uso, gli immobili sono macchine per abitare, citando un grande architetto del secolo scorso che era Le Corbusier, e quindi non ha macchina per abitare o per produrre reddito nel caso di uffici o di capannoni. Palesemente, nel momento in cui noi abbiamo una popolazione italiana che decresce al 2%, che fa un saldo più o meno alla pari soltanto grazie all'immigrazione, e abbiamo ovviamente 25% di produzione industriale in meno in pochi anni, è chiaro che il nostro bene strumentale, che è l'immobile, perde le sue funzioni produttive primarie, e siccome non può pensare di essere un bene rifugio se non per il fisco, il quale naturalmente se l'ha accorto per primo, bravo. E quando abbiamo l'83% dell'allocazione del patrimonio reale degli italiani proprio sugli immobili, abbiamo chiuso un cerchio paradossale, per cui nella ricerca spasmodica del bene rifugio invece della propensione al rischio e all'investimento produttivo, gli italiani si sono incaprettati da soli, esponendo la giugulare ai canini affilati del fisco, il quale giustamente ce li ha affondati e adesso se li succhierà per i prossimi 20 anni. Ma quindi il messaggio semplificato alla famiglia ipotetica italiana è: pensateci due volte se pensate di mettere una parte molto elevata del proprio reddito per comprare, ma se invece hanno immobilizzato i mattoni come hanno, che cosa dovrebbero fare? venderli avendo in mente i prezzi in lire, non in euro, perché probabilmente li hanno comprati in lire, sì, e quindi che li rivendano tradotti in lire, come faceva Silvio Berlusconi, se ricordate, quando parlava di tasse parlava di tasse in euro, quando parlava di investimenti in lire all'epoca, no, di vecchio coni, perché comunica meglio. Ma se posso dire una cosa, il vero problema in generale, al di là degli immobili che ovviamente hanno assorbito in maniera illegittima e inefficiente la gran parte del patrimonio degli italiani, per rimettere in moto il paese bisogna riavviare il ciclo di investimenti produttivi, ovvero bisogna reinvestire in azienda. L'ABI ha detto una cosa bellissima, anzi Banca d'Italia se non sbaglio, le aziende italiane hanno 200 miliardi di sottocapitalizzazione, che i signori italiani vendano a prezzi di mercato, semplicemente quelli che paga il mercato, non c'è nessun altro prezzo, esatto, quello di mercato, vendano un po' di immobili e li vendano, come dire, a condizioni di mercato e mettano soldi in azienda. Le aziende italiane bisogna ricapitalizzarsi, primo, e poi li mettano, vi faccio dire, infrastrutture intangibili che sono educazione e tecnologia. Se noi non riallochiamo la quota enorme di patrimonio, non possiamo pensare di muoverci con un PIL che si basa su infrastrutture produttive, tecnologie produttive, modelli di allocazione del patrimonio inefficienti, non corrispondenti ai fabbisogno, diciamo, di un'economia globale, specialmente non corrispondenti alla capacità di cogliere anche la crescita all'estero, che ha bisogno di molta più come dire, allocazione di capitali in processi produttivi e distributivi che noi non abbiamo. Allora, la domanda che faccio, la risposta però al professor Carlo Alberto Canavale Maffei viene dopo 60 secondi di informazione stradale che seguono la mia domanda, è questa. Abbiamo margini delle imprese in calo da anni, anche qui certificate dalla Banca d'Italia a molti osservatori, anche bancari. Abbiamo una pretesa fiscale delle imprese altissima. E abbiamo una domanda che non tira, abbiamo i mercati esteri che sono quelli contrassegnati dalle sfide che lei ci ha appena ricordato. In queste condizioni dire agli imprenditori patrimonializzate investite di più, quando i margini sono così bassi, anche quello è un ragionamento che deve sfidare i flussi che sono bassi, attuali, e dire ragazzi se non mettete soldi investiti anche in queste condizioni di tassazione di pochissimi utili, voi comunque perderete la sfida, se ho capito bene. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:47 primi 46 secondi. No, voglio rassicurare la raffica, come ieri, la raffica di messaggi che equivocano quello che dico sull'80 euro. Io non mi avete mai sentito dire errore, io dico solo che abbiamo analisi serie, no? Per le quali nel breve l'effetto sulla ricrescita, la ricostruzione dei margini, l'occupazione, per un'uguale unità di capitale data in restituzione bonus IRPEF ai redditi più bassi, gli 80 euro, oppure in meno IRES IRAP, ecco, l'effetto maggiore sul rilancio a breve, al breve medio, è quello sulle imprese. Detto questo, non mi avete mai sentito dire che errore, perché io non trascuro il fatto che per milioni di italiani quegli 80 euro che mese dopo mese crescono sono un straordinario beneficio a fronte della enorme percentuale di reddito disponibile perso. Quindi io non sto dicendo questo, sto dicendo però che essere ottimisti, visto che bisogna ricostituire il reddito perduto, e quindi non è che gli 80 euro diventano tutti consumi aggiuntivi, come si vede dall'andamento dei consumi in questo primo frangente dopo che è stata data la prima tranche degli 80 euro, ecco che allora non si può essere iperottimisti se non facendo le scelte di priorità giuste, il motivo per cui stiamo chiedendo al professor Carlo Alberto Carnavale Maffei con noi di darci la sua opinione. Allora professore, io le avevo fatto una domanda: con margini così bassi e tasse così alti, chiedere agli imprenditori investite di più è necessario? Ecco, totalmente una sfida però. D'altra parte il messaggio è molto semplice: o investi nella tua impresa o la vendi, perché se la tieni in queste condizioni semplicemente distruggi valore. E questo è fare impresa, signori, no? È prendere delle decisioni e sapere che una scelta di continuità quando sono cambiate radicalmente le condizioni è semplicemente suicida. Quindi noi sappiamo invece che gli imprenditori statisticamente hanno depauperato o sottopatrimonializzato le imprese, con la complicità interessata delle banche, che erano ben felici sostanzialmente di rendere dipendenti le imprese dal proprio capitale, esatto. Okay? E quindi posso dire che dobbiamo smettere di mettere la croce alle banche oggi dicendo che non danno credito? Le banche devono dare meno credito all'economia, perché il credito delle imprese deve essere preso fuori dalle banche, deve essere preso sul mercato delle obbligazioni, sul mercato dei bond, su altre strade che non sono il credito bancario. L'intermediazione bancaria dell'economia italiana è eccessiva e deve diminuire, non aumentare. Posso dire questa cosa importante? E la prima fonte di credito alle imprese sono i capitali delle famiglie. Se non ci crede l'imprenditore, perché dovrebbe crederci la banca? Non c'è dubbio, però una domanda di molte sms che arriva. Professore, lei dice dismettete per un impiego più redditizio del vostro patrimonio in mattoni, ma se lo Stato è il primo che ne ha tantissimi e non lo fa lui? Ma io appelli allo Stato, fateli pure, io adesso lo Stato non ci ascolta, fa quello che esatto, fare. Fa quello che io lo faccio a voi e lo faccio agli ascoltatori che sono attori semirazionali, non dico razionali, e comunque lo faccio nel vostro interesse. Lo Stato lo sappiamo che non lo fa perché è in conflitto di interessi, i politici non vendono quello che hanno perché è fonte del loro potere, è fonte del loro sistema di autoreferenzialità, inutile che ce lo attendiamo, è questo meccanismo strano per cui l'Italia si è comprata il consenso della massa degli elettori con un patto fiscale scellerato e con questo consenso prosegue sostanzialmente. Però devo dire a tutti voi, se andate a vedere gli indici di valore reale degli immobili negli ultimi 20 anni, sapete che siamo ancora al 20% sopra la media degli ultimi decenni, e quindi a parte che abbiate comprato nel picco, cioè intorno al 2006-2007, tutti gli altri probabilmente continuano ad avere un avvaloramento significativo. Non voglio fare la politica contro no, posso dire o li vendete o li ristrutturate profondamente, trasformate gli immobili in classe C, classe B o classe A se potete, almeno scontate l'efficienza energetica dei prossimi 20 anni, perché il rischio qual è? Che sennò fra 10 o 15 anni vi vengono forzosamente a chiedere di ristrutturarli, quindi oltre a non averli venduti vi tocca pure investire. Quindi, però traduco, professore, mi corregga se sbaglio, una riallocazione, innanzitutto la ripatrimonializzazione delle imprese, uno, due, è una riallocazione di vaste parti delle immobilizzazioni patrimoniali, avrebbe bisogno di una leva fiscale per se appunto un politico, un legislatore identificasse come priorità, dice qui devo fare in modo, visti i bassi flussi che per anni, per la crescita bassa dell'Italia che mi devo attendere, per riallocare fette di patrimonio e per incoraggiare gli investimenti, il fisco deve diventare molto agevolante. Siamo reduci da anni in cui i politici dicevano questo e poi promettevano dei crediti d'imposta che di volta in volta erano o gli incentivi all'innovazione tecnologica, agli investimenti tecnologici delle imprese, che poi si facevano col click day, cioè delle prese per i fondelli, se posso essere in due parole chiaro. Lei che tipo di leva fiscale utilizzerebbe per ottenere questi obiettivi che ci ha appena descritto? Beh, intanto appunto parlerei di leve fiscali a scopi patrimoniali, sì, e non tassativi, sì, proprio perché la grande priorità di questo paese è riallocare l'enorme patrimonio privato. Quello su quello pubblico non spendo parole, abbiamo già detto, no? Io parlo, sì, del patrimonio privato che è importante. Bisogna incentivare le famiglie ad allocare i propri risparmi su fondi invece che a gestione, che su obbligazioni bancarie. Questo sta già avvenendo, i dati stamattina di ABI sono chiarissimi, sì, meno 40 miliardi di obbligazioni bancarie, più 50 miliardi in un semestre di fondi comuni, quindi è un segnale positivo, sì, questo assolutamente, ok? Se vuol dire che gli risparmiatori hanno capito o stanno capendo la lezione. E fatemi dire, anche in questo caso la paradossale tassazione delle cosiddette rendite finanziarie, che tali non sono ma sono rendimenti, ricordo, ha in un certo senso favorito, perché chiaramente i fondi hanno un trattamento fiscale paradossalmente migliore in quanto sono all'ordo e non al netto. Quindi già questa cosa paradossalmente indirizza. Il vero problema è una campagna massiccia di patrimonializzazione delle imprese italiane, prima di tutto, prima ancora che intervenire sull'allocazione del patrimonio specifica, che per me è una distorsione. Il vero problema è rendere l'allocazione del capitale nell'impresa interessante, e in questo senso invece la tassazione sui rendimenti finanziari non aiuta, perché ha reso il costo del capitale per le imprese ancora più alto, no? Ne dicevamo proprio l'ultima volta che ne abbiamo parlato con te, Oscar. Quindi dal punto di vista fiscale dobbiamo far spostare i capitali degli italiani da investimenti improduttivi rifugio a investimenti produttivi aziendali. Però faccio una domanda concreta: se pensiamo per esempio a delle risorse finanziarie molto notevoli che gestiscono i fondi previdenziali. Io mi limito a quelli integrativi, non quelli pubblici, però c'è un problema anche per l'impiego di quelli pubblici. Invece che mattoni e titoli di Stato, non bisognerebbe cambiare la disciplina fiscale per incentivarli a investimenti di medio lungo, lunghissimo periodo nelle imprese anche quelli? Assolutamente, infatti l'altro tema, oltre alla rallocazione del patrimonio, è il tema dell'allungamento della prospettiva. Gli italiani hanno in questi 20 anni accorciato brutalmente la prospettiva dei loro investimenti, con una propensione sempre più al breve periodo alla miopia. Noi abbiamo bisogno di allungare di un ordine di grandezza, cioè da 1 a 10 anni, ecco, l'orizzonte medio. E anche in questo caso, come dire, l'intermediazione bancaria è negativa, un'eccessiva intermediazione bancaria. Anche in questo caso le imprese devono imparare a mettere bond a durata medio-lunga, perché altrimenti se io ho credito a breve faccio investimenti a breve, ovvero non li faccio, okay? Se io ho credito che ha un commitment a lungo, per cui per me l'elemento fiscale non è soltanto dell'allocation, ma è fondamentalmente della duration, ovvero se tu vincoli i tuoi soldi a investimenti produttivi, a infrastrutture, a rendimenti molto lontano nel tempo, io assolutamente ti vengo incontro. E qui invece che quindi far fare gli investimenti allo Stato, semplicemente si tratterebbe di creare fondi di investimento infrastrutturale con dei benefici fiscali, a condizione che quei soldi non vengano toccati per 15 o 20 anni. Per 15 o 20 anni, in questo, privati, avete sentito? Esatto, questo volevo sottolinearlo a chi ci ascolta. Sentiamo Andrea da Reggio Emilia, come la pensa. Andrea, prego. Sì, salve. Io volevo dire semplicemente una cosa. Io sono uno di quei pazzi che 3 anni fa è uscito da un'azienda come dipendente per aprire una propria attività insieme con un socio. Abbiamo più di 40 anni, quindi siamo proprio al secondo livello. Ci siamo a seconda base proprio perché siamo ripartiti. E come vanno le cose? Diciamo che ci stiamo inventando e reinventando un qualcosa che non esisteva, quindi il classico oceano blu. Però in questo momento, partendo con dei fondi privati, quindi limitati, senza l'aiuto delle banche, che in questo momento invece di aiutarci anche a fronte di un business plan, che nel nostro piccolo naturalmente stiamo parlando di un'azienda che fattura 300.000 euro in partenza naturalmente, ovviamente questi continuamente ci vessano. Per cui l'azienda che ha il piano perfetto, pulito, giustamente con difficoltà, perché il momento è quello che è, le banche in questo momento la mano la tolgono. Sì, ho capito, però sul complesso dei problemi del settore bancario io la penso un po' come Carlo Alberto Carnevale Maffè, questo è un problema. Non sono le banche che sono interlocutori, esatto, sono i fondi. Sono i venture capital, le banche non possono fare quel mestiere. Allora, professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, siccome il ragionamento, per non cadere nell'errore di essere gufi o struzzi, è di una visione lunga, io le chiedo purtroppo di tornare anche tra 2 giorni, se può. Mi risponderà per privato. Intanto continuate tutti su Radio 24, appuntamento con me a domani.